Gli faccio un applauso da solo a Marco Roma. No, perché abbiamo qui un ospite d'eccezione che è Raffaele Quattrone, che probabilmente non ha mai ascoltato la nostra trasmissione e dunque non sa che abbiamo appunto dei fantastici interventi di gente come Marco Roma che ci canta. C'è sempre una prima volta. Oddio, abbiamo già un ciao cambio radio per un'oretta. Mi sembra giusto così. Se volete scrivere al 333 180 94 94 e sintonizzarvi invece con i nostri fantastici ospiti di stasera. Esatto, abbiamo Giulia Quadrelli e Raffaele Quattrone, due personaggi di spettacolo. Danno molto, perché Raffaele in realtà ti conoscevamo tutti come un curatore, e improvvisamente sei diventato un uomo di televisione grazie a Masterpiece. È da un po' poi che frequento la televisione, dal periodo dell'epidemia. Ah, vedi? Okay. Quindi ho già un trascorso. Hai già un trascorso, cioè nel senso che sei già stato in televisione, ma noi non lo sapevamo. E voi non lo sapevate. Ok. Un po' come Marco Roma. Un po' come Marco Roma, esatto. Ho capito. Ma dunque, che cosa hai fatto in televisione, giusto per capire? Tempo passato? Sì, certo. Tempo passato collaboravo con Rai 1. Ah, dai. Così, collaboravo con Rai 1. Quindi un programma di Carlo Conti che francamente non mi ricordo come si chiama. Era il periodo dell'epidemia, perdone. Ok. Però era molto bello, eh. È stata un'esperienza molto bella. E poi sono andato con un programma di NEC. Mm-hmm. Un programma della Balivo che si chiamava Elpo un dubbio e cioè, Domenica In. Sei un esperto, sì, di televisione. Come hai fatto a infilarti dentro questi meandri? Perché voglio dire, per caso, noi che bazzichiamo il mondo dell'arte, cioè la televisione proprio è lontanissima. Per caso, perché era il periodo dell'epidemia, per cui non trovavano nessuno. Ok. No. Davvero, ti giuro. Una sera ho ricevuto un SMS al cellulare dove mi invitavano il giorno dopo a Roma per fare un colloquio. Certo. 9 di sera, la mattina dopo alle 10. Alle 5, quindi... esatto. Fantastico. Quindi sono stato lì a pensare, vado o non vado, chissà chi è, chissà che non è. Poi il giorno dopo mi sono comunque presentato, sono partito presto da Bologna, sono andato a Roma e ho iniziato questa avventura con Carlo Conti. Hai capito? Perché c'era tanta gente che in quel periodo non voleva muoversi e tante persone che da Roma erano pendolari perché venivano da Milano o da altre città e che in quel periodo erano ritornate nella loro città e non volevano tornare a Roma. Certo, e quindi tu invece hai fatto... Io ho fatto il contrario. Hai detto, sai che volentieri prendo una scusa per muovermi. Sì. E ti sei trasferito a Roma? Mi sono trasferito a Roma, sì. Sei stato là tutta la pandemia? Facendo tutta questa, la pandemia. Questa trasmissione. E da lì ti è venuta voglia di fare di continuare. Masterpiece, giusto? E da lì è poi iniziato sì, altri progetti come questo, Masterpiece. Mm-hmm. Che ha cominciato la sua programmazione ufficialmente domenica scorsa, cioè ieri. Due domeniche fa. Sì, cioè, no, ieri la prima puntata. Ieri c'era la prima puntata, due domeniche fa c'era il teaser che mi sono guardato e ieri appunto invece la prima puntata. Una puntata di un'ora, bella solida, piena di un sacco di artisti e soprattutto un sacco di Medio Oriente nella prima puntata. Prima puntata sì, molto particolare, basata su... guerre, violenza, tematiche relative al potere, alle donne. Quindi insomma, come prima puntata sicuramente una puntata difficile. Mm-hmm. Però partiti... diciamo, dopo questa è tutto quanto in discesa. Uh-huh. Quindi sono contento di aver tolto subito il peso maggiore, per cui adesso sono in discesa. Naturalmente tutte le puntate le hai già registrate tutte, per cui potresti anche raccontarci cosa succede nelle prossime. Ci fai una preview di quello che succede domenica prossima? Domenica prossima è una puntata che a me piace molto. Mm-hmm. E noi ci trasferiamo da Palazzo Rinoceros, quindi da Palazzo Fendi. Mm-hmm. Andiamo all'Accademia di Spagna, quindi a casa mia. Ok. E cambia completamente la scenografia, quindi passiamo da questo minimalismo che caratterizzava la puntata di ieri a il Rinascimento, insomma portiamo un po' di colore. Ok. E nella prossima puntata c'è Bertozzi, Giampaolo Bertozzi, quindi per Bertozzi e Casoni, e poi c'è Michelangelo Pistoletto nella seconda parte. E nella tra un artista e l'altro c'è Stefano Del Bravo che canta questa canzone di Claudio Baglioni insieme a Pistoletto, quindi anche una novità. Grande, così. Bello, hai capito? Cioè, da non perdere. Così. Quindi domenica prossima tutti sintonizzati su documentando.org. .org, sì, alle 11. Alle 11. Che in realtà, anche se arrivi alle 11 e un quarto, puoi cliccare play e non succede anche niente. Anche alle 5. E non succede niente. Non succede niente. No, perché io per un attimo, quando ho ricevuto il comunicato stampa di tutta questa cosa, ho avuto la paura che fosse live, per cui ho avuto paura che se arrivavo in ritardo mi perdevo un po' cioè come quando, certo, quando in televisione. A parte, certo, che adesso c'è la televisione digitale che puoi andare indietro, cioè tipo io. Davvero? Sì, io ho la televisione in digitale e quando arrivo in ritardo per il telegiornale posso andare indietro e schippa, cioè. Ma va? Anche se in diretta tu puoi scegliere di riguardarlo dall'inizio, esatto, e non da quel momento in cui è, sì, sono, no, non lo sapevo, neanche tu, neanche io, scusate, cioè, mi sento veramente come se stessimo parlando un'altra lingua. Ho detto a lui, io non ce l'ho la televisione, ti chiedo di io non ce l'ho avuta fino a qualche mese fa. Ah sì, no, sì, infatti, no, anch'io, no, cioè, no, no, non l'avevo in cucina, invece adesso è apparsa ed è digitale, appunto, e c'ha queste robe qua, che è si un disastro, perché poi finisce che dopo guardi la televisione, che è una cosa che non bisogna fare, perché bisogna ascoltare la radio. Bisogna ascoltare la radio e guardare Masterpiece. Appunto. C'è Masterpiece. Un'ora. Esatto. Fuori porta. Ho messo la sigla di Fuori Porta perché Masterpiece è fuori porta. E anzi, in realtà l'ho messa perché questa è una sigla che mi ha fatto Chiara Pergola, che io invito caldamente a tornare, naturalmente, esatto, visto che tu sei, come sei messa, mia. Io lo dico in diretta, così. Lo puoi dire in diretta. Io prevedo di maggio passare un bel mese in Riviera. Un bel mese in Riviera. Perché no? E giugno non ho idea, e poi luglio nascerà il mio bimbo, per cui chi lo sa, farò un po' di pausa. Stefano non mi sostituirà. Non ti sostituirà. Però per qualche mese, così, forse sarà più un'eccezione che una regola essere a Coxo Spaziale, ma sarò sempre ovviamente sintonizzatissima dalle 20 alle 21 su Radio Città Fuggito, al contrario del nostro ascoltatore che ci ha scritto un cambio radio per un'oretta. Mi chiedo, anzi magari glielo chiedo, perché magari era su un'altra radio e quindi entra su Radio Città Fuggito, ma secondo me non proprio. No, piuttosto mi chiedo che radio ascolterà per quest'oretta. Adesso magari glielo chiedo. Ma se non è sintonizzato non ci risponde. Ah no, ma glielo chiedo direttamente. Parla davanti al cellulare. Rispondendo al suo messaggio. Giorgia, raccontaci di te. Tu non hai la televisione, no, però. Giulia, intendi. Dicevo Giorgia. Oddio, Giorgia. C'è un'altra. Giorgia, no. Nome. Così, variopinto questo. Vabbè, ci sta. L'ultima volta che eri qui, Mia non c'era. Era assente, per cui. Infatti, sono molto felice finalmente di incontrarla face to face. E io ti faccio il benvenuto, il bentornato. Grazie, sono sempre Coxo molto Spaziale. Felice di questi inviti a Coxo Spaziale. Cos'è, la terza volta che terza arrivi. Volta, sì, più tutte le trasmissioni che abbiamo fatto insieme l'anno scorso. Infatti. Per l'Accademia di Belle Arti, quindi non dico che proprio mi sento a casa, però l'anno scorso ci siamo incontrati un po' di volte. Sì. Però questa volta, dai, torno per una cosa nuova, così per non annoiare. È una cosa che in realtà ci interessa anche a Raffaele. Sì, vediamo. Già sono distrutta dal fatto che ho mancato la finestra della pandemia per inserirmi nel mondo televisivo. Cioè, un'attrice che non coglie questa opportunità mi ha distrutto con questa cosa. Ho detto, vabbè, è andata la pandemia. No, per ma lui fortuna. Deve essere l'eccezione che conferma la regola, perché tutti gli altri, scusa, non faccio tutti gli altri dello spettacolo, non avevano fatto anche delle manifestazioni, perché nessuno di loro guadagnava più. Il mondo niente. Dello spettacolo in ampasso, esatto, durante la pandemia, lui ha svolto. Invece, cioè, esatto, era invece, bello incontrarti invece, prima, Raffaele, è andata così. No, poi ti racconto. Sì, racconta, allora, racconta, è un po' imminente il fatto, nel senso che io faccio parte di questa tra i vari progetti che sono venuta qua a raccontarvi, faccio parte di questa compagnia che si chiama Gruppo RMN. con cui siamo in scena questo venerdì 19 aprile alle ore 21 al Teatro Spazio Binario di Zola Predosa in Piazza della Repubblica 1, per la precisione. Ci si arriva anche col trenino perché è alla stazione di Zola Predosa. Fantastico, quindi esatto. Eco-friendly e tutto quanto, teatro binario per però quello. Poi non si torna a casa. Però non si torna a casa effettivamente. Giusto, perché ma cioè, queste serate così calde ho abitato a Zola Predosa per un po' e so come sono i trasporti pubblici. Vabbè, però per così stai dividendo. Posso anche, no, non è che sto disincentivando, torni a piedi, torni a piedi. Cioè, però allora lo sai com'è il teatro, la drammaturgia contemporanea, gli attori dopo aver smontato la scenografia ti riaccompagnano a casa. No, mai fatto. Non ci pagano neanche per quello. No, scherzo. Assolutamente. Per voi andate in trenino, che fatevi venire a prendere da qualcuno. Ma andate in treno. Noi vi riaccompagniamo a casa. No, a parte gli scherzi, siamo in scena con uno studio del nostro nuovo progetto, secondo progetto di questa compagnia, che si chiama Costellazione Vicinelli. È un lavoro dedicato per l'appunto a Patrizia Vicinelli, che nessuno sa chi che sia. Nessuno sa chi sia, ed è anche un po' quello il fulcro del nostro spettacolo. Esatto. Che è partito con una serie di interviste in cui la prima domanda era: chi è Patrizia Vicinelli? A cui molte volte è stato risposto: non ne ho idea. No, in realtà è una figura rimasta un po' ai margini, ma che ultimamente si sta riscoprendo parecchio. Tra l'altro è da pochissimo stato ripubblicato un libro con tutta la raccolta delle sue opere da Argo Edizioni. È un testo che viene presentato domani pomeriggio alle librerie, posso dire anche questo, no? Certo, perché siamo lì con la compagnia, sì. Domani alle librerie Coop Zanichelli, quelle in piazza Galvani. Wow. Alle 5 viene presentata questa nuova raccolta, che è abbastanza, insomma, particolare, perché è un po' difficile trovare un'opera omnia delle sue opere, e questa giovane casa editrice ha raccolto tutto e ripubblicato questi testi, che per un po' di tempo sono stati molto complessi da trovare. E noi, visto che facciamo rete tra giovani, non tanto più giovani, in realtà presentiamo come compagnia, leggeremo alcuni passaggi delle sue opere, niente di quello che andrà in scena venerdì, invece, in cui proprio presentiamo questo progetto che racconta un po' la figura di Patrizia Vicinelli, poeta e performer bolognese nata nel 1943. È purtroppo venuta a mancare nel 1991. Super giovane, sì, abbastanza giovane purtroppo, lasciando in realtà tante opere che non sono, come mi ha dimostrato la domanda di Stefano, molto conosciute, nel senso che è una figura anche per suo desiderio rimasta spesso ai margini, figura complessa che ha un po' sfuggito etichette, movimenti, gruppi e quant'altro, pagando però un po' il prezzo di questa, diciamo, poca conoscenza. In realtà per noi molto interessante, noi siamo una compagnia di teatro di prosa, ci definiamo, per capirci, quindi quando abbiamo attaccato il territorio della poesia, tra l'altro la sua è una poesia concreta, molto performativa, lei ha lasciato tantissimi documenti registrati, è una poesia complicata, però ci ha talmente affascinato la sua persona, la sua vicenda personale, per cui abbiamo detto: intestardiamoci, scaviamo oltre e andiamo un po' a conoscere questo personaggio, anche perché noi lavoriamo molto con questa tecnica delle interviste, quindi abbiamo iniziato a raffica a intervistare persone che l'hanno conosciuta, parenti, e da lì nasce un po' la drammaturgia. Poi se volete vado più nello specifico, però ditemi voi. Beh, sembra molto interessante. No, è super interessante. Io ho avuto l'onore di poter vedere una pre-preview di questo spettacolo. Sì, perché andiamo come funziona oggi spesso nel mondo del teatro indipendente, perché noi, insomma, abbiamo la fortuna in realtà con questo progetto di aver raccolto abbastanza consensi, per cui abbiamo avuto il sostegno del Comune di Bologna, del Comune di Castelmaggiore, siamo finalisti adesso in un bando piuttosto importante della Corte Ospitale, che è un centro di produzione in Emilia Romagna. Sì, però non si dice se sei finalista e non l'hai ancora vinto, perché no, si dice, siamo in C, no, è pubblico, è tutto pubblico, pubblicato sui social. Beh, è già un valore essere scelti, certo. Sai quanti teatrantici provano queste e non domande. Arriva neanche tra gli primi cinque. No, comunque facciamo diversi studi che apriamo anche per sapere un po' il feedback del pubblico. E Stefano è venuto a vederci allo studio precedente, cosa dici? No, a me mi ha affascinato tantissimo. No, mi è sembrato super super interessante come progetto. Sono contenta. No, devo dire che ci siamo appassionati. Poi io sono ignorantissimo di teatro, come tutti ben sanno, visto che sono 10 anni che avevo, cioè per 10 anni Coxo Spaziale è stato affiancato da Fedra, che appunto si occupava di teatro, e io delle volte intervenivo giusto per prendere per il culo gli ospiti che in realtà parlavano di cose serissime di teatro, per cui sì. Però siamo entusiasti quando viene a vederci qualcuno, uno che non ne sa di teatro, e poi, due, figurati a parlare di poesia di cui ne sappiamo poco anche noi, e va via affascinato, dici beh, sì, qualcosa si è mosso. No, devo dire che abbiamo usato questa figura come pretesto per interrogarci un po' intorno alla figura dell'artista in sé, perché mettiamo in scena questa commissione fittizia, immaginaria, che però presa da, è verosimile, perché è stato fatto un appello per Patrizia, sì. Posso dire, posso raccontare? Sì, sì, certo. Tu certo. Per lo sai che io parlo, parlo macchinetta. Ti fermo io, non ti preoccupare. E, no, abbiamo scoperto, indagando sulla sua figura, che nel 1990, quindi un anno prima poi della sua morte, è stato lanciato un appello da intellettuali, ma fior di intellettuali, Umberto Eco, Concetto Pozzati, Renato Barilli, perché venisse applicata per Patrizia Vicinelli la legge Bacchelli, sì, cosa che io non conoscevo. Cos'è la legge? È una legge tuttora in vigore, che se approvata a favore di un artista, insomma persona di rilievo culturale, aiuta economicamente appunto artisti, persone della letteratura, ma anche della scienza, che abbiano dimostrato attraverso le loro opere, la loro carriera, di portare lustro al nostro paese. Una sorta di pensione. Esatto. Per aiutare appunto per aiutare personaggi culturali che stanno vivendo, non dico in miseria, ma comunque non particolarmente abbienti, insomma. Esatto, un momento di difficoltà. E io non sapevo di questo strumento, diciamo, di cui beneficiano tra l'altro grandissimi artisti, e quindi questo è stato un po' il pretesto per immaginare una commissione che si trova tra le mani il curriculum di una persona ed è chiamata a decidere se questa persona sia o meno un artista. Quindi tutto il nostro lavoro ruota un po' intorno alla domanda: che cos'è un artista? Che cos'è l'arte? Chi decide che cosa è o non è arte? No, in effetti quello che mi è piaciuto molto erano proprio le domande incalzanti e anche abbastanza così un po' offensive nei suoi confronti di una eventuale commissione che di fatto deve decidere se sei bravo o no. Certo. Però poi le commissioni sono così. Fanno così. Io sono la cattiva, fra l'altro. Tu sei la cattiva, infatti. Sono la più iena di tutti. E si può dire una domanda cattiva? Si dopo. Dire? Sì, dopo. Questo... aspetta, non mi vuoi. Stavo per abbassare anche me stesso. Si chiama Wake Up dei Selmod, featuring Augustus Watkins, è arrivato dalla Florida. Esce il 24 maggio il nuovo EP che si chiama Rituals. Just another way to e di questo questo è il momento in cui io alzo il microfono degli ospiti mentre stanno parlando, lo faccio sempre E raccontano il succo della puntata. Ah sì? No, ed era una cosa spaventosa perché io ho paura di questo. Te si ricorda, ha ricordato dove ci sarà lo spettacolo, la via, il numero civico, l'autobus. Vabbè, tu ti devi ora passa, qual è il numero? Io non mi ricordo nemmeno il nome della trasmissione. Ma intanto lui lavora alla RAI. Infatti. Se puoi fare la differenza. Però è facile, dai, documentando.org me lo ricordo anch'io perché poi l'abbiamo menzionato, la settimana scorsa. Poi domenica alle 11. Ma la pandemia si è presa tutti i nostri ricordi. Tutto. È vero, eh? Cioè. Per me sembra un periodo così lontano, però poi ieri. Sì, sì, sì. Io lo... Sì, sì, da un'altra parte, ti capisco perfettamente. È bello fare, no? Come le radio di una volta, tu, che alzano a basso. Tu sei DJ, proprio. Sei un super DJ. Vabbè, tanto il nostro unico ascoltatore se n'è andato, per cui chi se ne frega. No. Ma non dire così. Comunque non lo ricordo. Perché era un periodo in cui c'era proprio un grande vivai, perché la gente si ammalava facilmente. Perché anche lì eravamo pochissimi e quindi era facile proprio il ricambio. Perché... Sei in diretta, io te lo dico. Okay. No, te lo dico perché non sono come Stefano, quindi. Grazie, non stavo dicendo niente. Io invece volevo ringraziare Jay Lexvold di Cocaine Opera che ci ha mandato questo pezzo. Chissà dove mi ha trovato, fra l'altro, perché è indirizzato a coxospaziali@gmail.com. È bello. E cosa c'è scritto? No, infatti, non okay. Male. Ah, no, niente. Cioè, ci ha mandato il pezzo. Sì, sì, ma è tutto in inglese che mi dice released April 12th for Stefano for your review or future consideration we got a second glimpse eccetera eccetera. Oh, thank you. Ah no, infatti thank you Jay. Thank you, Jay. Ma torniamo Jay. Torniamo ai nostri fantastici ospiti. Torniamo ai nostri fantastici ospiti. Oddio, no, questo no. Era dopo. Sì, questo era dopo. Era dopo. Siamo qua con Giulia e Raffaele. Quadrelli e Raffaele Quattrone. Cioè, avete un qua in comune. Un qua, vedi? Vero, ci siamo trovati. In comune allora ce l'abbiamo. Per la memoria no. Però ho un problema che il mio orologio dice 20:31, per cui e quindi la pubblicità. Esatto, per cui dobbiamo fare così. Coxospaziale. Adesso sì. Stavo, ho detto non siamo. Stavo guardando le mie menzioni, ma secondo me me ne sono dimenticata una. Io non sono so pronta perché. Quando vuoi. Sei pronta? Sì. No, io volevo dire che entro il 25 aprile c'è un open call per tutti, per qualunque artista che voglia partecipare, organizzata dagli amici di Hidden Garage. Te li ricordi? Certo, come no. Molto bene. Il tema è Art Market Ain't No Place for Artists, ovvero il mercato dell'arte non è un posto per gli artisti. E implica appunto un evento, un'installazione di pochi giorni con Slice 2024 a Colchester, 40 km da Londra. Tutti i dettagli li trovate su www.hidden-garage.com. Hai capito. Non faccio lo sdang perché non sono ancora partite le menzioni, però visto che questo è un open call mi sembrava simpatico dirlo. E adesso lo sdang. Adesso faccio lo slang, questo. Che è parte di questa cosa qua. L'angolo della menzione. Cosa succede venerdì 19? Ah no, però aspetta un attimo. Vedi, mi hai fatto partire troppo presto. Perché io sono convinto che martedì ci sia un'inaugurazione alla Regione Emilia-Romagna. Per cui scrivo su internet Regione Emilia-Romagna. Se vuoi intanto io dico quello che c'è venerdì 19 aprile. Aspetta un attimo che è... Martedì 16 aprile alle ore 13 inaugura la mostra fotografica Le Terre dell'Emilia Romagna. L'occasione gradita per porgere i più cordiali saluti, no, questo non lo devo dire. Mostra fotografica a cura dell'area geologia, suoli e sismica. Fantastico. Ingresso libero, Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 50 a Bologna, inaugurazione domattina alle ore 13. Se andate lì per i pasticcini sappiate che non ci sono i pasticcini, no. però è sempre bello andare a vedere cosa succede alla Regione Emilia-Romagna. Invece venerdì cosa succede? E invece venerdì 19 aprile alle ore 18:30 il Museo Medievale inaugura la mostra Conoscenza e Libertà a cura di Anna Contadini, una mostra di arte islamica che sarà visionabile fino al 15 settembre. Questo al Museo Civico Medievale in via Manzoni 4. Sempre venerdì alle ore 21 invece al Teatro Spazio Binario di Zola Predosa abbiamo chi sono questi? Ma perché abbiamo una roba di teatro? Cosa c'entra? Scherzo, il gruppo RMN presenta uno studio del nuovo progetto Costellazione Vicinelli. Ma bravo, eh? Ma come sei più preparata di me? Hai visto? Nel 1990 un gruppo di intellettuali lancia un appello affinché venga approvata per Patrizia Vicinelli la legge Bacchelli, quella legge che garantisce un sussidio ad artisti in difficoltà. A partire dal lavoro di una commissione che deve valutare cosa sia un artista e definire il valore autentico dell'arte, gruppo RMN indaga la figura di questa tanto complessa quanto affascinante poeta e performer bolognese. Scritto bene. Hai visto? L'hai scritto tu. Il progetto è finalista del bando Forever Young, la corte ospitale. È possibile acquistare biglietti online sul sito di spaziobinario.it e questo è appunto lo Spazio Binario di Zola Predosa in piazza della Repubblica 1 a Bologna. No, ho fatto un po' fatica perché appunto alle volte la chiamavo, lo devo dire, sì dai, la chiamavo Zola Pietosa. Tutti quanti la chiamiamo Zola. Anche se in realtà è un posto meraviglioso, soprattutto per crescere dei bambini piccoli. Dopodiché sabato 20, cosa 20 aprile succede? Dalle 16 alle 22 al Capannoon inaugura Simon Gallery. Full Circle Paintings, mostra personale, una mostra personale. Tutto questo abbiamo detto al Capannun, la Sala Zero di Savena. Via Imelde Lambertini numero 5, Bologna. Sì, purtroppo il Capannun non ha voglia di scrivere i comunicati stampa, perché noi non sappiamo mai niente di quello che succederà, ma però Marco Ghigi, che salutiamo caldamente naturalmente, mi manda sempre sti sms tutto esaltato, è la mostra più bella che ho mai fatto eccetera, per cui naturalmente andiamo a vedere anche Simon Callery, che non conosco obiettivamente. Dopodiché sempre alle 18, sempre sabato, sabato 20 aprile abbiamo Beth Moon e Omar Gagliani con una mostra intitolata Opere, in mostra una selezione di opere dei due artisti, Beth Moon e Omar Gagliani, presenti in galleria negli ultimi anni in occasione di esposizioni personali e progetti istituzionali. Questo è all'Ariete Arte Contemporanea in via Marsili 7 a Bologna. E sempre sabato 20 aprile alle ore 18 Studio 7 Bello presenta la mostra Short Term. In realtà ho sbagliato ed è alle 18:30, per cui 18:30 studio. Avete tempo dalla galleria all'Ariete ad arrivare fino a 7 Bello. Subito dopo, quindi subito la galleria. E allo Studio 7 Bello presenta la mostra Short Term Vivere Ovunque con Mattia Ferriani e Giovanni Laghetto a cura di Emma V e Marco Tombini con musiche di Lorenzo Gianferri e Agnese Mussari. Tutto questo a 7 Bello, via Cartelleria 7A, Bologna. Non contenti, in vicolo dei Facchini 5C Lab abbiamo Figures of Absence, un impro live con Barbara De Dominicis, Cristian Maddalena e Elio Matruscelli. E inoltre abbiamo questa proiezione dell'archivio poetico di Orlando Martello con Mathieu Chouvard, che era uno dei francesi quella volta che avevamo 200.000 ospiti. Sì, lui. Lightning Strikes, The Oblong of Dreams Out of the Darkness con Dore O, ispirato alla poetica visiva di Dore O, l'azione sonora di Figures of Absence è radicata nel trame sotterraneo dell'inconscio, alla ricerca di un senso di percezione amplificata tra ipnosi e chiarezza. Durante la serata verrà proiettato in anteprima il teaser di Archivio Poetico di Orlando Martello, il film sperimentale in pellicola 16 mm, diretto e realizzato da Mathieu Touvard, primo artista in residenza di 5C Live. Con questo basso? Non questo, tutto all'interno di 5C Lab. Questo è in vicolo dei Facchini 5C a Bologna. E domenica 21 aprile dalle ore 15 alle ore 18 Terra Canta, un workshop di Eleonora Rossi e Matteo Lucca, pratiche e movimento per semine poetiche, danza, argilla, scrittura, semina. Terra Canta è un laboratorio nel quale l'esplorazione del movimento e dell'impasto dell'argilla si intrecciano con la poesia e la semina, il corpo entra in relazione. Ci sono ancora posti a disposizione, ma bisogna iscriversi quanto prima scrivendo a bonni.g.me@gmail.com. Il workshop si tiene al Forno Bonora di Brento, vicino a Pianoro. Per cui andatevi a guardare l'Instagram di Forno Bonora e poi iscrivetevi, perché ci sono ancora qualche posto. Basta, abbiamo finito, possiamo ritornare ai nostri ospiti che ci racconteranno un sacco di roba. Cosa Raffaele, raccontaci com'è fare televisione per il mondo dell'arte, perché io naturalmente mi sento un po' invidioso, io vorrei fare televisione ma purtroppo arrivo solo a fare radio. Lo facciamo insieme. Quando vuoi, sono prontissimo. Anzi, secondo me abbiamo anche Giulia che ci accompagnerebbe volentieri. Assolutamente. Quindi la squadra l'avevo già composta per il prossimo. No, anche perché fra l'altro in Rai se ne stanno andando tutti, per cui secondo me qualche posto libero può darsi che ci sia. Dici che cosa subito ne dici di fare il prossimo Sanremo? Guarda, dipende quanto mi offrono. A metà prezzo rispetto a Amadeus, diciamo di sì, noi tre. Dipende che valletti mi posso scegliere. Abbiamo anche un ospite silenzioso. Possiamo salutarlo ufficialmente? Il nostro. No. Ovviamente sì. Ovviamente sì. Sei in diretta. Ciao, grazie dell'invito. Hai visto? Lo presenti tu? L'ospite silenzioso. L'ospite silenzioso, ok. Va bene. Il bello di Coxo Spaziale, appunto, è che succede sempre un sacco di roba. No, ritorniamo alla domanda: che com'è fare arte in televisione? Perché non deve essere facile. Complicato spiegare ai direttori, diciamo, di rete o di produzione. Come dire, un programma che riguardi l'arte, nello specifico l'arte contemporanea. Perché comunque un pubblico generalista non è interessato a questo tipo di prodotto, e se non è interessato non ci sono gli sponsor, non c'è pubblicità e quindi non ci sono i soldi per poterlo realizzare. Per cui sai, perché io non sono così convinto che il pubblico generalista non sia interessato all'arte contemporanea, è una questione di interessarli, appunto. È una questione di creare quell'interesse, perché per tante cose non c'è un interesse. Però poi a furia di vederti lì, quell'interesse lo crei all'interno delle persone. È stato molto faticoso, perché anche il progetto all'inizio non era così come è stato realizzato, voleva essere molto più pop, per avvicinare proprio il grande pubblico. Certo. E molto più rapido, perché prevedevamo delle puntate di 15 minuti. Ah, ecco. Quindi delle chicchette flash. Sì, anche con un linguaggio, diciamo, non proprio tecnico. Però il rischio era quello di banalizzare, per cui sai, c'è stata tutta una corrente opposta, perché non andava bene, perché poi sembrava più spot. Sì. Fammelo passare così. Sì, quindi abbiamo cercato di lavorare sulla durata. Doveva durare un'ora più o meno, un'ora e un quarto, perché poi con l'aggiunta della pubblicità arrivava un paio di ore. Perché diciamo devi conteggiare anche la pubblicità ogni 20 minuti. Si è cercato nel progetto iniziale di creare un gruppo, un interesse, cioè che ci fossero delle persone esterne al mondo dell'arte che chiedevano, si interessavano e che magari potessero avvicinare un pubblico più ampio che magari si identificava con loro. Certo. Questo progetto non è stato realizzato appieno, nel senso che c'era stato un po' di opposizione anche per questo, per cui i ragazzi ci sono 5 nel primo episodio, poi diventano 10, però in realtà non interagiscono, non parlano così come voleva il progetto iniziale, sono sempre fermi. Sono spettatori. No, infatti io pensavo che fosse quasi un gioco a premi, che dovevano rispondere alle domande, invece poi ho visto che non è così. No, cioè nella prossima puntata chiedono di più, perché ovviamente diciamo c'è un po' più di margine nell'altro contesto, però sai, anche averli lì immobili aiuta poco. Certo. Perché se poi questi stanno lì a fare la statuina possiamo anche far senza, cioè il senso di averli all'interno del programma era diverso. Ora non dico che dovevamo fare non nella Rai, però diciamo comunque questo gruppo doveva essere un gruppo che avvicinava e che con un linguaggio non da tecnici poteva raccontare il mondo dell'arte. Certo, poteva essere un po' un ponte tra un ponte E come è venuta questa idea? Come è nata questa idea? L'hai già chiesto, Stefano? L'hai già detto? Raffaele? No. Il primo gruppo di ragazzi viene con me dalla RAI. Ok. Cioè, ci siamo comunque conosciuti in RAI ad un programma della Bellivo dove facevamo gli opinionisti. Hai capito. Com'è fare l'opinionista per la Balivo? Cioè. Hai un'altra domanda? Passiamo alla domanda successiva. No, vogliamo saperlo. Anch'io voglio andare a fare l'opinionista per la Balivo. Fai fantastico. La candidatura alla prossima pandemia. Ok. La prossima. No. Abbiamo già detto che il prossimo progetto vengono anche loro, per cui siamo già stati assunti. Quindi per il prossimo ci sono anche Non c'è neanche bisogno di un'altra pandemia, prendi lo stesso. Dai. E, quindi loro vengono da lì e poi dalla seconda puntata in poi c'è un gruppo che viene da un'università americana, delle ragazze che sono laureate in storia dell'arte. E quindi sono più tecniche, certo, anche nelle domande. Infatti li stiamo sentendo che stanno atterrando in questo momento. Arrivano. Ho capito. Ah, e dunque fanno domande più tecniche, insomma. Fanno delle domande agli artisti, sì, più tecniche. No, e poi ho visto che comunque all'interno del programma ci sono dei piccoli documentari che che non ho capito se sono stati fatti appositamente per il programma o se esistevano già e avete acquisito. Alcuni sì, alcuni no. Ok, perché in effetti sì. Okay. Perché c'era un problema di tempi, okay, di agende e di tante persone che dovevamo in un qualche modo trovarci a fare questo progetto. Per cui, pensando alla prima puntata, la prima parte, il primo video, quello di Shirin e Shah, è stato fatto per noi. Ah, dai. Era proprio quello che pensavo che non fosse stato fatto per voi. No, quello è stato fatto per noi. I video li ha comunque composti la stessa Shirin. Composto, dai, diciamo, quei video che noi abbiamo mandato in onda, cioè delle parti perché di video. Perché tu, Shirin e Shah, la Balivo, andate in discoteca insieme. Un trio incredibile. Cioè, non lo so. Comunque, vabbè, adesso questo te lo chiediamo offline, come fai, insomma, a conoscere comunque Shirin e tutti Shah. Gli artisti hanno partecipato a quel programma, quindi creando il materiale o venendo lì da noi a chiacchierare con noi, oltre ad aver preparato poi il materiale. Anche l'artista del Pakistan mi è sembrato super interessante. Come si chiama lui? Imran Qureshi. Imran Qureshi, soprattutto la scuola di per imparare la miniatura, quello era super affascinante. Proprio a un certo punto c'è appunto questo pezzo che comunque potete andarlo su documentando.org, potete andare a riguardare la puntata, e appunto c'è questa scuola di miniatura dove lui, curatore della scuola, invita artisti locali pakistani eccetera a stare lì un mese e a raccontare la loro modalità di pittura. È super interessante, cioè, vedi proprio questa, c'è proprio un'atmosfera bellissima lì dentro, rilassata. Esatto. Ma un artista per essere invitato, per esempio, per vedere uno Stefano Pasquini all'interno di una puntata di Masterpiece, come si fa? Ormai non allora, si fa perché Masterpiece le puntate sono stagione 2000, esatto. Prossima. Nella prossima sarò il co-conduttore, per cui comunque ecco. Non vedrai. Allora io sarò l'opinionista per conflitto di interessi, sì. Per conflitto di interessi non vedrai le mie opere, però va bene lo stesso, vedrai la mia faccia. E vabbè, abbiamo già creato Masterpiece 2. È un attimo. Le abbiamo finite a giugno dell'anno scorso. E quante puntate ci sono in tutto? Cinque puntate. Ok, perfetto. Ognuna dedicata a una due artisti. Okay, sì. In realtà c'è 50 un tema. Euro a puntata e ha guadagnato 250 euro, non è male, né? Scherzo, sì. Tu era una battuta. Era una battuta. Sai che non ne capisco le battute, soprattutto in diretta. Cioè. Okay. C'è un tema per ogni puntata e questo tema poi caratterizza le pratiche artistiche di coloro che saranno in quella puntata lì. E siccome in nessuna delle cinque c'era il mio tema, non mi ha invitato. Ma qual è il tuo tema? Aspetta, dimmi qual è il tuo tema, perché così dici. Il mio tema in questo momento è Julian Assange, che non credo che sarebbe così leggero da essere messo in in televisione, però non si sa mai. Beh, in realtà potrebbe essere la prima puntata che c'è stata ieri, non era leggera, non era leggera. No, infatti, ma non anche Shirin Neshat, anche Shirin Neshat non scherzo, anche perché avevamo l'Iran e quindi tutto ciò che è avvenuto in Iran, e quindi anche parlare di quell'argomento lì dovevamo fare attenzione ai termini. Certo. Che utilizzavamo. Infatti lì la domanda che ti faccio da radio TV, c'è qualcosa che non si può dire, anche voi dite anche in radio vostri... c'è qualcosa che non si può dire, però poi noi lo diciamo lo stesso, ma va bene. Ci sono delle cose che non si possono dire, sì, dei nomi di marche, di brand, di aziende, tipo di privati. No, perché qua si possono dire. Infamissimo. Teoricamente non potresti nemmeno esprimere delle tue convinzioni politiche o comunque delle tue idee, anche se tu dici un mio pensiero, comunque non puoi utilizzarlo perché lì tu stai utilizzando un mezzo pubblico. Sì, certo, cioè comunque stai parlando a nome del programma. Cioè io non posso dire io la penso così e quindi dico la mia, certo, con la premessa che io la penso così, no, perché sto comunque utilizzando uno strumento pubblico, che non è il mio. Però dici un'opinione politica della politica attuale. In questo momento, fra l'altro, io sto dicendo, non so se lo sai, ma siamo in par condicio, per cui non possiamo dire neanche le nostre opinioni politiche. Per questo che stavo in questo momento. Sì, no, di solito possiamo insultare Salvini tranquillamente, ma non adesso, non in questi giorni, perché ci sono. Dopo ci radiano. Sì. No, però è molto delicata la cosa dell'opinione politica, no? Sì, perché certo, in realtà anche sostenere un'idea, non so, per un tipo di educazione pubblica, piuttosto che dire, magari non parli direttamente di un personaggio politico che è in quel momento in sì, diciamo, no? È complesso, però il linguaggio, stai raccontando che c'è, una è complesso cosa politica. Il linguaggio che c'è dietro, nel senso che tu parli a tutti e quindi quei tutti comprendono tutti gli schieramenti politici, per cui tu non puoi farti esprimere il pensiero soltanto di alcuni, certo, perché faresti torto agli altri, perché come devi giornalista parlare a tutta quanta la platea. Vorresti fare più o meno come dovrebbe fare un giornalista. Più o meno, come dovrebbe, dipende quale giornalista. Esatto. Per questo che ho messo sì, un no, po' comunque, più o meno. Comunque un bel casino, possiamo dirlo. Mi è arrivato un'email dal direttore dicendo di non parlare di politica, per cui presumo non dovremmo parlare di politica, visto che non parliamo mai di politica. Perché siamo arrivati a parlare di politica. Esatto, stiamo parlando d'arte, infatti. C'è qualcos'altro che dobbiamo sapere di Patrizia? Di Patrizia Vicinelli? Si può leggere? Sì, ti prego. Leggere? No, allora, quello che una dicevo... Una cosa che non leggi domani. Una cosa che non leggi domani, cosa... non c'è nello spettacolo. No, quello che dicevo a mia... Cosa? Sì, perché? Ma vedi? No, sono, dicevo anche sono... perché lo spettacolo è venerdì. Comunque, lo spettacolo è venerdì. Domani non la leggeresti. No, però quello che dicevo è che è difficile leggere Patrizia con la propria voce. Sì, noi abbiamo scelto, infatti, nello spettacolo... Ci sono le registrazioni. Noi non interpretiamo mai i suoi testi, okay. Li interpreta lei, noi raccontiamo tutto quello che c'è attorno. Poi, se proprio volete... Lì ci sono solo i suoi testi o c'è anche qualcosa... No, qua ci sono solo i suoi testi. Ok. Ci sono... Aspettate, ve ne leggo un pezzettino. Prendi uno politico. Prendo uno... No! Lei è tutta politica, ma in qualche modo alla fine svicola... No, per motivi politici è stata anche, diciamo, messa in carcere, quindi... Ah, okay. No, perché infatti l'arte non politica è molto difficile... No, infatti per... Devo dire, cioè, che questo tra l'arte e il giornalismo siamo proprio... Teoricamente almeno... qualsiasi idea che esprimiamo, esatto, è comunque politica. Esattamente. Cosa vi posso leggere? Un pezzettino... Volevo beccarvi uno dei miei preferiti, ma adesso dove è andato? No, ovviamente non riuscirò a trovare prima della fine della trasmissione. Ah sì, anche perché fra l'altro sta per finire, per cui... Vi posso leggere... Vediamo... Apro la... No, questo... 97. 97? Dai, vado così. 97, vediamo che cosa... Aia. Alla faccia. Ve ne leggo per farvi capire la complessità di Patrizia Vicinelli. Benedetto figlio, io che non ti ho conosciuto a Porta Portese, le tue motivazioni più intime le conosco e so cosa ti muove a vibrare una coltellata all'addome di un amico che muore. Poveraccio lui, poverino te e disgraziato. Wow, hai capito? Leggera. Leggera. Sì, è nota per essere veramente frivola. Come... no, è veramente un'artista molto molto particolare. Fra l'altro devo dire, dal punto di vista anche di cittadina bolognese, con rammarico, pochissimo pochissimo mai ricordata dalla sua città, fino a che non l'ho sentita da te, per non so se la cosa più incredibile che un po' spezza il cuore è che a Patrizia Vicinelli è intitolata la rotonda che porta all'aeroporto. Ma dai. Ah, dai. Che è una cosa che è tra... Ma è quella in cui la gente parcheggia e non dovrebbe... No, no, no, non è quella okay. del Kiss and Ride. Si può dire Kiss and Ride, dove è troppo politico Kiss and Ride. No, è una, due, tre rotonde da via Triumvirato, okay. E io ogni volta che vado a portare o a prendere qualcuno in aeroporto, perché io certo. faccio la concorrenza... No, in effetti bisognerebbe fare una petizione per smettere di dare un nome a una rotonda, perché chi è che si ferma in una rotonda? Però mentre la circumnavighi il nome... No, bisognerebbe fare una petizione perché c'è un archivio di Patrizia Vicinelli che è in uno scatolone del figlio a casa sua con tutti i materiali. Wow. Noi siamo andati lì perché i figli sono veramente deliziosi, ci hanno aperto la porta di casa e un sacco di ricordi anche, e ci sono materiali di questa grandissima artista che è esposta a New York, a Tokyo, a Parigi, e a Bologna è in uno scatolone di plastica che è il suo archivio. No, non diciamo niente di politico, però... Però sti casti, possiamo dire quello. Io vi ringrazio tantissimo, ma il tempo c'è tiranno. Raffaele, hai anche curato una mostra che hai inaugurato la settimana scorsa, ne abbiamo parlato con Jacopo, e cosa curerai di bello nel futuro prossimo? La settimana scorsa, una questa settimana a Milano da Artra. Ok. E una questa settimana, sabato a Roma. A Roma, e dunque non ci vediamo a Venezia, immagino, oppure no. Sì. Ok, no. Perché invece sì, invito a Roma, se passi a Roma. Assolutamente, vieni. No, vengo molto volentieri, anche perché devo venire a parlare con Amadeus. Allora dai. È lanciatissimo. Sono lanciatissimo, molto bene, come al solito. Io ero Mia da Schio su Piei. E io Stefano W. Pasquini. Ringraziamo tantissimo Raffaele Quattrone, Giulia Quadrelli e anche il nostro ospite misterioso qui di fianco che ci... E come al solito ci salutiamo con le fantastiche parole del nostro direttore di radio, che ci saluta così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Questo è Love is So Special, il nuovo singolo di Mr. Vegas and Albo Royce, che esce il 7 maggio per MV Music, e come al solito ringraziamo Felix di Boom Rush Promotions che ci aggiorna sempre sulle novità del mondo reggae. A lunedì prossimo. That life is special, so special, we got to move faster.